Die grauen Pupillen, die Lieder, was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei, verweht, nie wieder. Nie wieder. Du musst auf deinem Gang durch Städte wandern, siehst einen Pulsschlag lang den fremden anderen. Es kann dein Feind sein, es kann dein Freund sein, es kann im Kampfe dein Genosse sein. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue. Sono le 18 e 39 minuti di giovedì 6 luglio 2006 e ci troviamo sulla terrazza dell'ex hotel S, adesso passato alla catena Radisson di via Turati a Roma, un posto dove si respira una vaga atmosfera di dolce vita, ma questo è sicuramente un albergo che piacerebbe molto agli utenti Apple, tipici utenti di podcast, proprio perché gli arredi sono tutti bianchi e sembra di stare un po' dentro un Apple iBook. E sono in compagnia di Dominique Danglas, 48 anni, nazionalità francese e corrispondente a Roma di Le Point, ma anche del quotidiano svizzero francofono La Tribune de Genève, autore tra l'altro di una importante biografia di Giovanni Paolo II e che è stato in passato anche corrispondente a Roma della radio Europe 1. Insomma, credo di poter dire, Dominique, che tu conosca noi italiani abbastanza bene. Da quanto tempo sei in Italia? Ormai da 14 anni. Quindi credo che tu sia uno dei giornalisti stranieri più adatti per aprire questo ciclo di interviste. Dominique, questo podcast ha un po' l'ambizione di scattare una fotografia sull'Italia, sfruttando il punto di vista presumibilmente distaccato dei corrispondenti esteri che lavorano nel nostro paese. Il problema è che non è facile fare una fotografia quando il soggetto sta correndo. Tu hai anche lavorato, se non sbaglio, per un'agenzia fotografica, la Keystone, e quindi sai bene che non è facile. Così come non è facile registrare una giornata ventosa, come oggi, una giornata un po' bislacca, cioè un gran sole, però c'è molto vento. Al tempo stesso è difficile fermare in corsa una istantanea dell'Italia che dà la sensazione di un paese dove succede tutto improvvisamente molto in fretta. In una corsa sfrenata verso una rinascita, secondo alcuni, verso il baratro, secondo altri, verso la riconquista di una democrazia compiuta, secondo alcuni, verso invece un nuovo sistema di potere e di privilegi, secondo altri. Qual è la tua sensazione così a pelle? Ma io non sono convinto che ci siano questi cambiamenti e comunque che i paesi cambiano in un modo così definitivo con i cambiamenti di governo. Io credo che in fondo prima dell'elezione c'è quel discorso sul cambio, sulla scelta di società, e poi quando uno vive in un paese si vede che i cambiamenti sono pochi. Io credo che i cicli sono invece più lunghi, nel senso che è chiaro che ci sono delle crisi soprattutto economiche, ma che spesso non coincidono ai cicli politici. Dunque io non ho questa visione di un'Italia che andava bene e poi andrà male, o al contrario. Io credo che i cicli sono diversi e credo che grandi paesi, grandi democrazie come la Francia, l'Italia, sono un po' al riparo di questi rischi. Credo che hanno una tale storia che allora è chiaro che i cambiamenti politici portano dei cambiamenti, ma non le vedo in un modo così drammatici. Ecco, secondo te in questo momento quali sono le grandi debolezze e i grandi punti di forza degli italiani? Non voglio fare un discorso, come dire, legato a proprio ai processi politici, ai processi economici, ma proprio come società civile, che cos'è che frena il progresso dell'Italia e che cosa invece lo potrebbe accelerare? Ma io credo che il problema dell'Italia sono gli italiani. nel senso che io, per esempio, io faccio un paragone con la Francia, dove c'è una società assolutamente bloccata da una crisi politica che ha fatto che negli ultimi 15-20 anni nessun problema è stato affrontato. Io credo che in Italia invece gli italiani hanno la loro sono luoghi comuni, ma la forza degli italiani sono o è la loro capacità di adattare, di essere svelti, di capire, di cambiare, di questa capacità di adattazione. Allo stesso tempo è anche la loro debolezza, perché il fatto di non avere alcuni punti fermi, alcune certitudini sul diritto, sulla legalità, è una debolezza, almeno dal punto di vista di uno straniero. Però il bene e il male vanno insieme, e questo è assolutamente nel DNA degli italiani. Quali sono, secondo te, i segnali, non della politica, non i parametri economici, ma proprio provenienti dalla vita quotidiana, che ti danno la sensazione di una società in possibile ripresa o in possibile declino? Se c'è qualche segnale debole che cogli proprio nella vita così di uomo della strada, non di giornalista? Ma io vedo piuttosto che un segnale debole, vedo un segnale forte su un evento che è stato sì celebrato, ma più come un fatto di cronaca che come un fatto di società, e cioè l'arresto di Provenzano e quello che sta accadendo in Sicilia. Credo che la mafia adesso sta molto male, più di quanto non lo è mai stato negli ultimi 50 anni, e credo che questo è un fatto importante, un segnale, perché questo dimostra che c'è uno Stato che si è rimesso in marcia, eccetera. E credo che magari sarà perché tuttora ho ancora quella, rimasto stupito da questo fatto della criminalità organizzata, che in un certo modo mi affascina. Però credo che in Italia l'importanza di quello che è successo la gente non l'ha vissuto davvero. No, no, io come giornalista vado spesso in Sicilia, seguo questi fatti, e per me mi sembra un fatto importante. Fatti negativi non ne vedo. Bene, sono confortato da cittadino italiano. Parliamo per un attimo di rapporti tra Italia e Francia. Durante i 5 anni del governo Berlusconi, adesso al di là dell'andamento delle relazioni ufficiali istituzionali tra i due governi, c'è stata ovviamente un'evoluzione parallela nei rapporti tra la società italiana e la società francese. Secondo te, in questo periodo, com'è cambiata la percezione che hanno i francesi degli italiani? Allora, su questo io ho un'idea chiarissima, perché l'ho vissuto sulla mia pelle nel mio lavoro, perché ho visto cambiare nell'arco di quasi 15 anni le richieste che mi sono state fatte dai giornali, dalla radio, e ho visto, quando sono arrivato, le richieste eravano quasi sole, a parte le classi, i classici cliché, cioè l'Italia villa d'arte, ville d'arte, o la pizza, eccetera. Però eravano soprattutto fatti negativi, mafia, corruzione, poi sono arrivato, c'è stato Tangentopoli, eccetera. E poi ho visto queste richieste cambiare e essere sempre, sempre, sempre di più su dei fatti positivi. E credo, e questa è una cosa che non smetto di dire, soprattutto quando incontro industriali, uomini della finanza, che gli italiani vedono la Francia con un piccolo complesso di inferiorità. Allora, sarà vero che noi francesi siamo arroganti, antipatici, eccetera, ma gli italiani dovrebbero rendersi conto di quanto l'Italia affascina la Francia. E lo dico perché gli italiani questo non se ne rendono conto, ed è un capitale enorme, enorme. Cioè la Francia è il paese, io sono nel mio giornale il corrispondente che lavora più di più del corrispondente in Germania, in Gran Bretagna, in Spagna, tra i corrispondenti europei. Non perché l'Italia va seguita come un paese che va male, ma perché l'Italia va seguita come un paese che comunque fa uscire delle novità e che comunque piace e affascina. E questo è un fatto, io ci tengo a dirlo, perché non è un per essere buono o simpatici agli italiani, perché io sono assolutamente convinto che gli italiani di questo non se ne rendono conto. Ancora una volta sarà colpa dei francesi, che anche quando hanno una simpatia non la dimostrano e sono comunque arroganti e antipatici, ma questo ne sono assolutamente certo. Quanto riguarda almeno il paese, il mio paese, l'Italia ha un capitale di simpatia e di fascino assolutamente enorme. Ma io mi ero ripromesso in questa registrazione non parlare mai di sorelle latine, però effettivamente, così come c'è il fascino indiscusso della sorella piccola che siamo noi verso la sorella grande, c'è anche alla rovescia. Cioè. Che anche tu parli della Francia con comunque questo atteggiamento reverenziale, la piccola sorella, eccetera. Non c'è motivo, non ci sono motivi, nel senso che magari se facciamo dei paragoni, potenze economiche, eccetera, eccetera, però per quanto riguarda la sensazione della gente non c'è nessun complesso da avere. In Italia da qualche tempo si parla di modello romano, direi quasi veltroniano, per il governo del paese, un modello che tende, diciamo, almeno nelle parole del sindaco, a trasformare e modernizzare la città cercando un compromesso tra crescita economica e solidarietà. Ora, alla luce del tuo rapporto con Roma, il fatto che tu vivi questa città, con tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, ti sembra giustificato parlare di un modello romano per l'Italia, oppure è solo una trovata di marketing del centrosinistra in un momento favorevole, in una congiuntura favorevole? Io ho votato per Veltroni, perché io, pur essendo straniero, ho diritto di voto in Italia, a Roma, per le municipali. Io trovo che Veltroni è stato ed è tuttora un buon sindaco, però non credo che il governo di un paese sia paragonabile e che un buon sindaco per forza diventa un buon presidente del consiglio. Noi abbiamo avuto Chirac, però anche se lui è un po' la dimostrazione del contrario di quello che stai dicendo, perché è stato un cattivo sindaco di Parigi, un cattivo presidente della Repubblica, però non credo che sono due livelli totalmente diversi. Credo che il sindaco ha anche più la capacità di incidere nelle cose reali. Credo che la politica a livello del governo è una cosa di una complessità molto più grande, molto più importante, con una capacità di incidere molto minore. Dunque non credo alla trasposizione del modello Roma al paese. Ciò non toglie che Veltroni potrebbe anche essere un buon presidente del consiglio, però non è collegato. Ok, facciamo una piccola escursione urbanistica rimanendo a Roma. Le giunte di Rutelli prima, di Veltroni poi, hanno dato alla città un nuovo piano regolatore che mette un po' da parte la preminenza dei cosiddetti sistemi direzionali e tende invece a sviluppare una città policentrica che in qualche modo somiglia di più a Parigi. Cioè Parigi con il tempo ha cercato di darsi più centri di aggregazione, mentre Roma, dopo aver tentato l'esperienza poi fallita del sistema direzionale orientale, e in passato dopo aver tentato il trasferimento di uffici e funzioni in altre zone della città, adesso cerca di sviluppare una molteplicità, diciamo, di centralità urbane. Qual è il tuo giudizio su questa impostazione? Io credo che questa è la cosa giusta da fare. Io ho vissuto 10 anni a Parigi e credo che il bello di Parigi è che non è che c'è uno arrondissement dove tutto si svolge, ci sono 10-20 Parigi diversi, perché uno che abita a Pigalle, vive lontano di Saint-Germain, però che sono due centri molto importanti. Uno che sta nel sedicesimo è lontanissimo dalla Repubblica, ma sono quartieri che hanno la loro identità e il loro fascino. E credo che invece la debolezza di Roma è che appunto c'è il centro storico, ci sono alcuni quartieri eleganti ma un po' noiosi, ma poi c'è una vasta città che ha un'identità non molto chiara, con un'edilizia con poca qualità. Dunque è vero che Roma è, tutti i turisti dicono, è la città più bella d'Europa, eccetera, rimangono assolutamente colpiti, però perché ne vedono da Piazza Venezia a Piazza del Popolo. Invece Roma è un'altra realtà e credo che quest'altra realtà ha assolutamente bisogno di essere curata e di essere sviluppata in tanti centri di diversi. Dunque, no, io condivido assolutamente questo punto di vista. Allora, passiamo in Francia. Nel 2007 ci saranno queste elezioni presidenziali con Nicolas Sarkozy che parte da netto favorito, diciamo, per la corsa all'Eliseo. E per noi italiani sembra un po' un film già visto, perché anche in Francia metà del paese vede in lui una specie di uomo della provvidenza e l'altra metà, diciamo, invece pensa che ci sia il rischio di una svolta populista, demagogica. E tutto sullo sfondo di un clima di grandi paure e inquietudini che sembrano agitare tutta la campagna elettorale, cioè è praticamente al centro del dibattito. Poi di questo parleremo un po' più avanti. Ora, secondo te ci sono delle analogie tra la situazione che potrebbe presentarsi in Francia l'anno prossimo e quello che abbiamo vissuto noi? Io credo che la Francia ha molto più problemi dell'Italia. Credo che l'Italia ha i suoi problemi di sempre, credo che la Francia ha dei problemi epocali. Poi io credo che purtroppo i uomini politici non possono essere giudicati dalle campagne elettorali. La campagna elettorale, Chirac diceva una cosa, che le promesse valgono non per chi le fa, ma per chi le ascolta. Sarkozy, che non ha la mia simpatia, potrebbe rivelarsi un politico molto meno peggio di quello che si pensa. Dunque, io non riesco assolutamente a vivere questa campagna sul face a face, sul binomio Sarkozy, Ségolène Royal o all'interno della destra, Sarkozy-Villepin, eccetera. Credo che ci sono dei problemi ed è questo che mi angoscia. Ecco, nel caso di vittoria di Sarkozy, come credi che possano evolvere le relazioni tra Italia e Francia, soprattutto nella prospettiva di quello che è comunque un ruolo guida della Francia, della Germania e perché no anche dell'Italia, della Spagna, nel tentativo di risuscitare il processo di integrazione europea? Non lo so, Sarkozy è molto pragmatico, eh? Dunque, credo che lui si adatterà alle realtà internazionali. E credo che comunque le diplomazie andranno avanti come sono andati avanti anche con Berlusconi, quando si sapeva che Berlusconi, oltre a essere odiato dalla sinistra, era assolutamente non aveva buona relazione né con Chirac né con tutto il governo francese di destra. Non penso che le relazioni tra l'Italia e la Francia abbiano conosciuto veramente una caduta importante, a parte piccoli eventi che fanno la gioia della stampa, ma nella realtà di quello che si vive tra i due paesi, cioè gli italiani che sono in Francia, i francesi che sono in Italia, gli imprenditori che lavorano, i progetti che si sviluppano anche a livello culturale. Non credo che hanno sofferto di questo quadro, che era il peggiore che si poteva pensare sulla carta. Ancora lì io ho questa visione della politica che fa un gran rumore e poi di una società che è molto più complessa e che comunque va avanti su dei tempi che sono diversi. Allora, sempre in Francia, proprio ieri, Chirac ha annunciato questo programma per imporre le quote rosa nelle amministrazioni locali. E questo, secondo molti, significa che la possibile candidatura di, ormai probabile, credo, no, di Ségolène Royal per le presidenziali è davvero temuta. La Royal sembra infatti l'unica in grado di portare a sinistra il voto di molte donne che normalmente voterebbero per Sarkozy. E questo è un fenomeno internazionale, perché la Merkel, come sappiamo, ha vinto di un'incollatura proprio perché è stata capace di togliere a Schröder il voto decisivo delle donne, perché le donne avevano portato poi Schröder a vincere. Negli USA addirittura c'è chi intravede un duello tra Hillary Clinton e Condoleezza Rice, e solo l'Italia sembra non interessarsi più di tanto al problema del ruolo delle donne in politica. E secondo te è un problema di arretratezza culturale o semplicemente una congiuntura politica che fa sì che in questo momento ci si occupi di altri problemi che vengono visti come prioritari? Beh, prima di tutto la dichiarazione di Chirac non è che sconvolge la Francia, perché Chirac ha sempre detto tutto il contrario di tutto. Dunque, effetto annuncio. Sì, effetto annuncio. Questo è il punto numero uno. Poi non è neanche detto che Chirac nel suo profondo abbia voglia di, come dire, di fare perdere Ségolène, perché Chirac è ossesso da un'idea e di non fare vincere Sarkozy. Dunque, come Mitterrand non ha aiutato il candidato di sinistra e ha quasi aiutato Chirac, le cose sono più complesse. Per chi voterà Chirac rimane un mistero. Poi il fatto che le donne siano un argomento forte in politica è credo che è vero, ma è vero perché è una delle poche cose che si può cambiare in poco tempo, nel senso che ormai molti cittadini non credono più che la politica abbia la capacità di cambiare la loro vita al riguardo dell'economia, del loro modo di vita, dei problemi sociali. Questo in Francia, dove abbiamo dei problemi sociali molto più grandi di quelli che sono in Italia. E dunque, invece, questo è lo dico in una parola che potrebbe sembrare peggiorativa, un gadget, perché non penso che sia un gadget, credo che è importante, però è una cosa che si può annunciare e fare e dare subito dei risultati. Dunque credo che anche questo è un fatto, cioè davanti il naufragio degli altri dibattiti politici, perché la gente si è reso conto che comunque la capacità di influire è poca, lì c'è qualcosa di nuovo che potrebbe capitare. Credo che questo è una parte importante del fascino delle donne in politica e di quanto questo fascino poi viene sfruttato da tanti partiti politici. Mentre nel frattempo siamo stati sfiorati da un menù che il vento ha fatto volare vicino alle nostre teste, ti voglio chiedere una cosa. Alle ultime elezioni politiche italiane il centrodestra ha annullato praticamente tutto lo svantaggio che aveva nel centrosinistra, verso il centrosinistra, giocando non tanto sulle proposte politiche, a cui non crede praticamente più nessuno, comunque sempre meno cittadini, ma sulle paure, le paure degli italiani, come per esempio la paura che la politica possa mettere le mani nel portafoglio. Ecco, anche in Francia il dibattito sulle prossime presidenziali sembra dominato dai timori dei francesi sull'ordine pubblico, sui casseurs, sui grandi tumulti nelle periferie, sulla paura dell'idraulico polacco, che è diventato quasi un mito, quasi una barzelletta, e che hanno costretto per esempio la stessa Ségolène Royal a prendere posizioni impensabili nella sinistra fino a qualche anno fa. La domanda è: ma quando potrà la Francia tornare a essere per l'Europa un faro di politica propositiva? Quando non lo so. Comunque c'è una differenza, che le paure che sono state agitate in Italia erano paure di cose che potrebbero capitare. Invece in Francia c'è effettivamente una linea politica basata sulle paure, ma che sono paure di problemi che sono lì e che che i francesi sentono tutti i giorni sulla loro pelle, dunque non è la stessa cosa. Quanto riguarda quello che è successo in Italia, io sono stato molto colpito da questo fatto. Nessuno se l'aspettava, in questo senso Berlusconi è stato bravissimo. Berlusconi, perché Berlusconi è un genio al modo suo, la sua capacità così a riprendere 5, 6, 7 punti così su 2, 3 idee che gli vengono non so quando, come, ma veramente la sua campagna andrebbe studiato in tutte le scuole di politica, perché la performance, non giudico assolutamente, non porto un giudizio sulla qualità delle proposizioni, ma la performance è stata incredibile, è stata una cosa sorprendentissima e nessuno non l'aveva visto arrivare, nemmeno gli istituti di sondaggi. Dunque questo è stato un fatto molto molto interessante. Ma quanto la Francia tornerà a essere un paese guida con delle proposte, la Francia ha davanti a lei dei problemi irrisolti di una gravità enorme, cioè l'incapacità di fare qualunque riforma, perché la gente non è assolutamente disposta cioè quel senso dello Stato che gli italiani invidiano ai francesi, non c'è più, non c'è una categoria sociale che non abbia fatto tornare indietro un governo sia di destra sia di sinistra, per il bene comune, per l'interesse nazionale. E poi abbiamo dei problemi sociali che sono, uno, la disoccupazione, che è altissima e che è veramente una piega molto di più di quanto lo è in Italia, nel senso che per chi vive in Francia siamo tutti circondati da gente che proprio non ce la fa, non sa che fare, non fa niente, non lavora da 5 anni, da 6 anni, in tutti i ceti sociali. E poi abbiamo anche quel problema enorme delle banlieue, di questa generazione di gente che sono nati in Francia e che non si sentono da nessuna parte, perché sono un po' come i punk degli anni 70 in Inghilterra, si sentono una generazione no future, e questa è una cosa gravissima, perché poi hanno dei risvolti, le rivolte delle banlieue, eccetera, queste cose. E questo è un problema che dura da tanti anni e non c'è l'inizio di una soluzione. E dunque questi sono grandissimi problemi, e credo che finché non saranno risolti, la politica francese sarà un po' tutta, come dire, oscurata da questi problemi seri. Ecco, invece adesso ti propongo di passare, per chiudere, a qualche tema un po' più leggero. Ho letto di recente un tuo pezzo per Le Point, proprio sullo scandalo di Calciopoli. Ti faccio una domanda un po' per assurdo: se una cosa del genere accadesse in Francia, come reagirebbero i francesi? Ma io credo, allora, può darsi che ho ancora delle illusioni sul mio paese. Credo che in Francia ci sono dei casi di corruzione spaventosi, ci sono dei delinquenti, però difficilmente in Francia si arriva a una come dire, a una corruzione generalizzata di tutto un ambiente. E questo è ancora la parte sana della Francia, nel senso che c'è, ancora una volta, c'è chi fa il delinquente, però c'è l'idea che comunque chi fa il delinquente è il delinquente. In Italia delinquente è una parola grossa, però chi frega il sistema, infatti, fa bene. Il furbo, infatti. E peggio, in Italia, chi può fare il furbo e non lo fa è lo scemo, è il coglione. In Francia ancora non c'è questa mentalità. E dunque credo che, ancora una volta, ci sono episodi di malcostume, eccetera, ma non vengono mai generalizzate. E dunque non credo che una situazione così Allora parliamo del calcio, perché il calcio potrebbe essere generale. Ci saranno state delle partite comprate, ma questo saranno stati tra due presidenti di calcio, l'abbiamo visto con Tapì, però non un ambiente, non una categoria. Un altro grande attore, Tapì. Tapì è geniale, Tapì è geniale, l'ho incontrato più volte, ma come Berlusconi è, al suo modo è geniale, sono un mattatore della politica, sono come dire, sono... Cioè, hanno capito il salto mediatico della politica che gli altri invece hanno sottovalutato. Poi al contrario di Berlusconi, Tapì ha una leggerezza, ha un umorismo, ha un... in fondo Tapì non si prende sul serio, invece Berlusconi, la cosa grave è che lui con tutta questa genialità si prende sul serio. Credo che questa è la differenza tra i due. Ok, l'ultima domanda te la faccio su un tema di strettissima attualità. L'Italia viene descritta in questi giorni come un paese prigioniero di privilegi, di corporazioni, ordini professionali, un paese bloccato dalle caste che avrebbe in realtà bisogno di grandi liberalizzazioni e così via. Però al primo tentativo di cambiare le cose, per quanto raffazzonato, frettoloso, un decreto eccetera, però insomma è scoppiata la rivolta dei privilegiati, no? Qui dall'altra parte non mi sembra che abbia fatto riscontro una protesta dei consumatori, degli utenti, che sarebbero in teoria i più immediati beneficiari delle liberalizzazioni. Ora, conoscendo la società italiana, pensi che una riforma forte in questo senso sia davvero un'impresa disperata, oppure credi che in qualche modo questi tabù potranno essere infranti? No, io credo che quello che sta accadendo adesso è un test molto interessante, perché poi, se fai caso, le categorie sociali toccate dal decreto del governo sono categorie sociali che non hanno molto simpatia del pubblico. L'assicurazione, non è che la gente va molto, o che la gente ha simpatia per l'assicurazione. Le banche e neanche i tassisti, che non danno un servizio che dà soddisfazione alla gente. E dunque io sono molto curioso di vedere che cosa accadrà. Credo che se il paese si ferma davanti alla protesta dei taxi, la cosa è grave. In Francia abbiamo il paese, il governo ha ceduto molte volte, però ha ceduto con i camionisti, ma i camionisti hanno un potere, i camionisti hanno fatto cadere il governo di Allende, i camionisti mettono il paese in ginocchio, non i tassisti. Hanno ceduto, il governo ha ceduto per le infermiere, però le infermiere, chi non ha simpatia per l'infermiera? Dunque credo che la scelta è stata da questo punto di vista abbastanza precisa, nel senso che si è preso di mira categorie che non avranno il supporto della massa, diciamo. Poi bisogna vedere come una piccola protesta, ma che dura, eccetera, viene gestito dal governo. Comunque è una cosa divertente che la sinistra fa qualcosa di destra e la destra protesta, cioè il mondo a riverso. Va bene, da ultimo, domenica 9 luglio all'Olympia Stadium di Berlino, che è stato anche criticato da Le Monde perché non è cambiato troppo dal 36, c'è una piccola partita di calcio, Italia-Francia o Francia-Italia. Come finisce? Io non ho mai avuto fiducia nella squadra francese. Poi sono rimasto assolutamente stupito dalla partita contro il Brasile. Dunque io, così ragionando, penso che l'Italia è più forte, però ho visto la squadra francese capace di fare una partita di antologia. Dunque io non lo direi, mia moglie è italiana, dunque non lo direi a casa, però io vedo l'Italia più forte. Però, e poi vedo un fatto che potrebbe portare la Francia a essere un po' meno concentrata, che la partita contro il Brasile è stato vissuto un po' come una finale, una prima finale, cioè la soddisfazione che ha portata questa partita, questa vittoria, dell'ordine della situazione di una finale, dunque i giocatori non hanno più la fame che ha l'Italia. Sono troppo appagati. Sono già un po' appagati. Però noi all'interno di questa storia abbiamo la storia di Zidane, cioè è il giubileo di Zidane. Domenica sera Zidane si, e poi sarà, lui lo fa sul serio, si toglie, appende gli scarpini al chiodo, si toglie gli scarpini e li appende al muro. Sarebbe anche bello se ci fosse qualcosa collettivo, perché sia per il giocatore ma anche per quello che ha rappresentato per la Francia, per tutti i cittadini francesi. Cittadini francesi, sarebbe bello. Dunque, nella grande storia del mondiale, di quella partita, abbiamo anche diciamo questa piccola storia di vedere come Zidane esce di scena. Però io aggiungerei che io vorrei soprattutto che sia una bella partita, ma non lo dico come si dice che vince il migliore, eccetera, perché io ho visto talmente partite brutte, mi sono annoiato talmente tanto che io preferirei un 4-3 per l'Italia dopo una partita bellissima con dei colpi di scena, eccetera, piuttosto che 1-0 paloso come quasi tutte le partite che ho visto al mondiale. Tutte le interviste di Due Occhi da Straniero sono pubblicate con licenza Creative Commons e sono scaricabili dal sito dueocchidastraniero.wordpress.com. La musica della sigla, per gentile concessione dell'etichetta Bella Musica Edizione, è Zwei Fremde Augen, cantata da Salome Kammer e tratta dal film Heimat 2, cronaca di una giovinezza, di Edgar Reitz. Per i vostri commenti e suggerimenti potete scrivere ad antoniocontent@yahoo.it. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braue Pupillen, die Lieder. Was war das von der großen Menschheit ein Stück? Vorbei. Verweht, nie wieder.